Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette e 10 minuti, inizia l'ultima puntata di Focus Economia della settimana, puntata, come molti di voi possono già immaginare, che sarà speciale, nel senso che salteranno tutti i temi e anche l'appuntamento chiaramente con gli sprechi della pubblica amministrazione. Ci sembra quantomeno fuori luogo in una giornata di lutto come quella di oggi. Invece, vista anche l'orario che vede molte migliaia di italiani in viaggio in questo momento in macchina, invece avremo aggiornamenti continui sulla situazione, tutt'altro che risolta, anche e soprattutto sul fronte delle vittime, non tanto i morti, ahimè, il cui numero, come avete visto e avete sentito, è, come era presumibile, anche aumentato, ma dalle continue notizie che arrivano sulle vittime, e a questo punto si inizia anche a cercare i profili delle vittime, quindi gli italiani, le ultime notizie dell'agenzia che vi ha riportato in parte anche il nostro ultimo GR24, la procura di Nizza parla di 10 bambini e adolescenti tra le vittime, e lo ha detto pochi istanti fa il procuratore François Molin nel corso di un intervento appunto a Nizza, e sempre la procura parla di 202 feriti a questo punto, di cui 52 in condizioni gravissime, 25 in rianimazione. Purtroppo, per l'esperienza e per la nostra esperienza, è abbastanza, ahimè, scontato, da attendersi, spero di sbagliarmi, che il numero dei morti, visto il numero dei feriti gravissimi e di quelli in rianimazione, sia destinato, temo, ad aumentare. Ne parleremo nel corso del programma, che sarà un programma speciale, cioè di aggiornamenti continui da Nizza, con i nostri inviati lì e con gli interventi che abbiamo raccolto nel corso di questa lunga giornata e anche lunga nottata, proprio per raccontare quello che non avremmo mai voluto raccontare. Faremo comunque un punto anche sulla cronaca della giornata economico-finanziaria, ci mancherebbe, così come il numero per i vostri sms e whatsapp resta 349-238-6666, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Chi mi chiede subito se vi sia stata una reazione delle borse, la risposta cinicamente è no, nel senso che obiettivamente posso capire gli elementi speculativi, ma non capisco quale speculazione si potrebbe fare su un attentato del genere. Parigi perde lo 0,60, Francoforte lo 0,20, Londra guadagna lo 0,15, l'America è invariata, Milano perde lo 0,41%, Snam guadagna l'1,20, Telecom l'1,20, Pop Milano l'1%, Banco Popolare l'1%, Pop Emilia Romagna 1%, Moncler perde l'1,80, Mediobanca l'1,5%, Poste Italiane meno 1,40, come Eni e Generali l'1,20 lo perde Exor, ma anche Iux, Net-a-Porter, Buzzi, Unicem perde l'1%, come Fineco Bank, Campari e Saipem. Di notizie parleremo solo di una cosa, di economia, perché ho promesso ieri un approfondimento sui dati dell'Istat sulla povertà assoluta, che ha toccato il livello più alto dal 2005 e riguarda soprattutto l'aumento della povertà assoluta, le coppie, la tipologia di genitori con due figli. Lì c'è stato un aumento di 4 punti percentuali in un anno, e ha riguardato anche l'aumento della povertà assoluta degli stranieri, gli immigrati, per un motivo, anche qui 5 punti percentuali di aumento di quota di povertà assoluta, e qui il motivo è che hanno famiglie numerose, quindi sono più a rischio sulla soglia di povertà assoluta. Allora, dunque, vi seguo, non vi vergognate, vedo già dei messaggi, vabbè, vedo qualcuno critica l'intervento di Alberto Negri, vabbè, vi posso dire una cosa, però magari sospendiamo anche le polemiche per un giorno, e vi prego di non scrivere sulla polemica immigrati, non immigrati. Adesso stiamo cercando di capire ancora l'attentatore. Confermo che inizialmente sembrava un tunisino, no? Che però fosse cresciuto in Francia, adesso invece sembra che sia il padre fosse addirittura un fondamentalista tunisino e che lui sia arrivato poi in Francia. Abbiate pazienza, vedremo. Per ora la procura in questo istante ha confermato che l'autista tentatore di Nizza era solo la guida del camion frigorifero. E ripeto, adesso il punto sarà, e lo faremo nei prossimi aggiornamenti continui dentro questo programma, capire anche le vittime italiane. È di Cuneo, un ragazzo che è gravissimo in questo momento, ma adesso ancora un po' di pazienza e vedremo tutti gli aggiornamenti. Partiamo invece con le altre notizie. Allora, la borsa l'abbiamo data, una notizia importante perché la giornata chiaramente ha avuto anche altre notizie, riguarda un'altra tragedia. Mi rendo conto che sia stata una settimana assolutamente, insomma, da dimenticare, e mi riferisco all'incidente mortale di Andria, perché come già avevamo capito, insomma, ieri, l'inchiesta della procura si è allargata, già lo si capiva dalle parole del procuratore ieri, e a questo punto sono indagati anche i vertici della ferrotranviaria. Questo ne parleremo nei prossimi giorni, ma insomma l'accusa è chiara, il perché non si sia mantenuto un sistema di sicurezza del genere, quindi la telefonata, il fonogramma, a fronte di un aumento tale delle percorrenze dei treni. Per quello che riguarda invece l'altro tema che ieri, diciamo, molto ha fatto discutere, la bocciatura della Corte di Giustizia europea sulla proroga automatica sui diritti balneari, le concessioni demaniali marittime e lacustri fino al 31 dicembre 2020, ascoltiamo su questo i 100 secondi di Radio 24, Sole 24 Ore, trasmessi anche, lo ricordo, su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore Alberto Orioli. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Alberto Orioli. Per i 30.000 gestori di altrettanti stabilimenti balneari del litorale italiano, le concessioni devono considerarsi scadute nel 2015. È l'effetto della sentenza della Corte di Giustizia europea che ha bocciato il meccanismo di proroga automatica usato finora in Italia per attribuire la facoltà di uso delle spiagge demaniali. La lettura che ne fa Bruxelles è che questo sistema di proroghe a tempi lunghissimi che usa l'Italia è contrario alla direttiva Bolkestein sull'apertura alla concorrenza nel settore dei servizi. Naturalmente ora la palla è al governo, che dovrà mettere a punto un decreto per accompagnare la transizione tra vecchio e nuovo regime. Un decreto vecchio del 2009 infatti aveva prorogato automaticamente le concessioni fino al 2020. Adesso l'Europa chiede all'Italia di riaprire le gare con procedure che dovranno garantire imparzialità e trasparenza con adeguata pubblicità, fatti che con il vecchio sistema delle proroghe automatiche non era possibile. Ora gli operatori chiedono al governo di mettere a punto un provvedimento ponte che proroghi di almeno 30 anni le concessioni attuali e consenta una riforma organica dell'intero settore. È la garanzia per chi ha investito di poter recuperare gli sforzi fatti. Sarebbe davvero un'ingiustizia che venisse premiato chi, sapendo che era pendente il giudizio con l'Europa, ha evitato, e sono stati diversi, in questi anni di ammodernare gli impianti e di fare investimenti produttivi. Le liberalizzazioni sono sacrosante, naturalmente, se garantiscono pari dignità ai consumatori e alle imprese, e soprattutto se non penalizzano le aziende più efficienti e orientate al consumatore. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, non voglio far guardare oggi polemica con le concessioni balneari, già ieri abbiamo parlato a sufficienza. Dico solo una cosa: andate a vedere a quanto vengono affittate, cioè quanto paga chi le affitta e quanto eventualmente le subaffitta. Infatti la Regione Toscana per esempio ha proibito di subaffittare la licenza, o a quanto vengono vendute quando vengono cedute le concessioni dei bagni. Questo per capire se il prezzo pagato è con l'affitto pagato e congruo al valore dell'area, visto che si tratta di suolo pubblico. Poi i proprietari dei bagni la pensano diversamente, facciamo gli investimenti, ho capito, ci guadagnate, e gli investimenti li fanno anche altri privati quando prendono la licenza, non è che li fanno solo quelli dei bagni. Il problema è capire se, come per un esercizio commerciale, un locale a Milano, a Roma, a Firenze, a Napoli, ha un prezzo di mercato, quanto costa l'affitto, capire se l'affitto a cui lo Stato dà le concessioni demaniali e con il rinnovo automatico che non si può sentire, è un affitto congruo oppure no rispetto al valore del giro d'affari. Vale per tutto il mondo del commercio e varrà anche per i gestori balneari. E andate, e se volete un raffronto, andate a vedere quanto viene subaffittata nelle regioni in cui si può fare, la Toscana invece è un esempio su questo, e a quanto vengono vendute quando uno decide di cedere a un altro privato, no? Perché, per capire se c'è un rapporto tra una e l'altra cosa. Però ripeto, oggi non voglio va a finire che le concessioni se le comprano i cinesi. Questa è la solita retorica del cavolo quando non si vogliono le liberalizzazioni. A me interessa che vi sia una concorrenza sul mercato, punto e basta. Ma andiamo avanti invece per quello che riguarda l'inchiesta della procura di Trani. Allora, indagati, confermo che indagati sono il presidente di Ferrotranviaria, e quindi Gloria Pasquini, il direttore generale Massimo Nitti, il direttore di esercizio Michele Ronchi e il capotreno del convoglio Pietro D'Andrea, questo già lo sapevamo, Niccolò Rizzo, che è l'unico sopravvissuto dei capitreno sopravvissuto alla strage. L'inchiesta ipotizza reati di omicidio colposo plurimo, disastro ferroviario e lesioni personali colpose plurime. Per quello che riguarda invece altri dati, oggi faccio notare che Wall Street si è fermata per un minuto per le vittime dell'attacco a Nizza, ho osservato un minuto di silenzio, mentre il dato che arriva dall'economia cinese è un dato di una stabilizzazione, per cui nel trimestre il PIL ha fatto più 6,7%, tutto sommato nell'obiettivo del governo. Per quello che riguarda invece un'azienda che sta creando molta polemica, già l'abbiamo sollevata noi, l'ex numero uno della Commissione Europea, quello che c'era prima di Juncker, José Manuel Barroso, che secondo alcuni ha avuto un atteggiamento molto democristiano e ha creato questa Europa, questa Europa debole nei confronti degli stati più forti, legge Germania. Beh, comunque, al di là delle responsabilità di Barroso, che comunque qualche responsabilità ce l'ha, se l'Europa ha il consenso più basso nella sua storia, diamo la colpa a Juncker, ma diamola un po' anche a Barroso. Ma l'ineffabile Barroso è stato nominato, l'abbiamo ricordato, presidente di Goldman Sachs International. Molte polemiche su questo, perché è un po' il problema delle sliding doors, come dicono gli americani, cioè le porte girevoli. Tu prima stai a fare presidente e poi vai a lavorare per la grande banca d'affari. L'abbiamo visto fare anche da Schröder in Germania, che è andato a lavorare per il Nord Stream russo. C'è chi chiede un periodo di moratoria, cioè se tu hai svolto quel ruolo così istituzionale, così importante, per un po' di anni non puoi ricoprire ruoli del privato. Sono il sospetto che negli ultimi anni tu ti stia già cercando un lavoro, è un sospetto che nasce. Allora, mentre Goldman Sachs dice che Barroso è stato nominato perché supporterà Goldman Sachs nell'attività di advisor, di consulenza per i nostri clienti in Europa e nel mondo, e non nulla a che fare con l'esito del voto della Brexit, il presidente francese François Hollande, che oggi chiaramente interviene sui temi dell'attacco terroristico e della strage di Nizza, però ha anche detto nella tradizionale intervista per la festa nazionale del 14 luglio che l'incarico da consulente all'ex presidente della Commissione Europea Barroso per Goldman Sachs è giuridicamente possibile, ma moralmente inaccettabile. Oh, veniamo all'Italia. La Banca d'Italia sostiene che con gli effetti della Brexit, la Brexit potrebbe avere effetti non trascurabili, anche se limitati, sul nostro PIL, una crescita che potrebbe essere sotto l'1% quest'anno per via della Brexit e all'1% e attorno all'1% l'anno prossimo. Il ministro Padoan invece, in un'intervista al settimanale tedesco Bild, dice che la causa delle crisi delle ultime settimane non è l'Italia, ma è il referendum britannico. Quanto al tema di un possibile intervento dello Stato nelle banche italiane, Padoan ha ricordato che all'inizio della crisi il governo tedesco ha salvato banche con 350 miliardi, mentre in Italia, grazie alla solidità delle nostre banche, il sostegno dello Stato fino adesso è stato di solo 1 miliardo. Ultima notizia che voglio dare è quella che riguarda invece il titolo RCS. Oggi è l'ultimo, si è chiusa la disfida tra Cairo e Bonomi, titolo in sofferenza, alle 17.30 scade l'ultimo, fra 5 minuti l'ultima possibilità per aderire all'offerta. Ancora i dati sono parziali, nel senso che a guardare a quanti si erano mossi verso Cairo si è al 22%, ma è al 30,4% su Bonomi, ma l'OPS di Cairo potrebbe salire al 30%, anzi dovrebbe salire al 30%, visto che i fondi Schroders e Vanguard hanno conferito a lui le quote. Per quindi il vantaggio, diciamo così, di Bonomi sarebbe veramente risicatissimo, ma aspettiamo le comunicazioni ufficiali a chiusura del tempo utile per aderire alle offerte. Una di scambio OPS, l'altra d'acquisto OPA. Allora, oggi avremmo voluto parlare anche di un convegno che ci riguarda, quello del Sole, è un viaggio che ci riguarda, il viaggio che il Sole 24 Ore sta compiendo in Italia, il viaggio nell'Italia che innova, che ci ha portato prima in Campania, poi a Bari, quindi la capitale economica e industriale, oltre che regionale amministrativa della Puglia, e oggi a Oderzo e quindi in provincia di Treviso, quindi il nord-est. Ne parleremo lunedì, perché oggi onestamente parlare di innovazione di piccole e medie imprese diventava un po' difficile con la cronaca degli aggiornamenti. Vorrei però farvi ascoltare solo la dichiarazione del presidente di Confindustria Boccia, che è presente appunto all'evento, relativamente ai fatti di Nizza, perché da lì poi iniziamo la pagina che non avremmo mai voluto iniziare, è raccolta dal nostro inviato lì, Adriano Palazzolo. Questa è stata una brutta settimana per l'Europa, a partire da noi per l'incidente in Puglia che non c'entra niente, e poi inizia. È evidente che non dobbiamo farci sopraffare dalla paura e dall'ansia, però siamo di fronte, diciamo, a delle questioni che dobbiamo affrontare, e qui la questione europea diventa determinante. Evidentemente parlare e cominciare a parlare di una difesa comune europea proprio dopo Brexit è uno degli elementi politici su cui affrontare una grande questione, che è la questione europea. Allora, iniziamo una pagina alternante, chiaramente avremo anche la chiusura di borsa, ci mancherebbe, lo facciamo con Annalita D'Ambrosio, che per inciso interessa poco, ma insomma era anche lei qua ieri notte quando abbiamo dovuto smontare tutta la scaletta di Radio 24. Annalita, rifacciamo il punto, dicevo che è ovvio che per chi è in collegamento faremo il punto anche sulla parte di dinamica dell'attentato, però mi sembra prioritario capire vittime e, inutile, già c'è attorno, vittime italiane. Allora, sul tema degli italiani non c'è ancora un dato ufficiale, ci sono un numero imprecisato, come ha detto anche il ministro Alfano, di italiani dispersi. Una degli italiani dispersi, una ragazza di Cuneo, è stata ritrovata viva, era in vacanza con degli amici, aveva staccato il cellulare e è stata rintracciata solo nel pomeriggio di oggi. Sembra paradossale che dopo l'attentato, tempismo, però insomma è stata meglio per fortuna così ritrovata viva. Invece una coppia in vacanza, è stato ritrovato il marito in gravissime condizioni, un uomo di 53 anni, tra l'altro un consigliere comunale, sempre della provincia di Cuneo, è stato trovato in gravissime condizioni e ricoverato nell'ospedale Pasteur di Nizza, mentre la moglie è ancora irrintracciabile. Quindi questo è il dato. Poi ci sono una serie di italiani dispersi, ma i numeri si riescono a ricavare solamente dalla ricerca che ne fanno i parenti, perché il ministro Alfano, e qui pregherei la regia di farlo ascoltare, sull'eventualità di vittime italiane non si è voluto pronunciare nella conferenza stampa che ha avuto questa mattina. Sentiamo Alfano. Sull'argomento ha già parlato il nostro console lì, che ha detto che c'erano molti italiani su quel viale, che ieri sera la presenza di italiani era appunto notevole e significativa, e che noi ancora non abbiamo nessuna notizia ovviamente, ma perché non ci sono dati ufficiali, ma nessuno può escludere, serve una prudenza massima nel gestire questo tipo di informazione che noi comunque fin qui non abbiamo. Questa dunque la voce del ministro Alfano, lo abbiamo detto, dati che non sono ancora definitivi, così come quelli relativi alle piccole vittime che sono stati una tragedia nella tragedia, prima tantissimi bambini coinvolti, perché sì. Ieri era una serata di festa, era il 15 agosto dei francesi, certo. No? Quindi addirittura poi ieri c'era una serata in discoteca, erano stati organizzati dei punti sulla lunga promenade con punti di ristoro, bar, e quindi c'erano tantissimi bambini. 15 sono quelli attualmente ricoverati negli ospedali, le condizioni ancora non si conoscono. In tutto il numero dei feriti è aumentato, era di 188 nel primo pomeriggio, oggi è raggiunto i 202, sono almeno 48 quelli che si trovano in gravi condizioni, anche il numero dei morti di 84, dicono le autorità francesi, che insomma è un numero che purtroppo potrebbe anche salire. Ecco, su questo vi do un aggiornamento, perché il killer Mohamed Launier Bouhel, il killer dell'attentatore di è arrivato al camion con cui ha fatto la strage da solo in bici. Leggo adesso l'agenzia insieme a voi. Il camion era parcheggiato in un quartiere di Nizza dal 13 luglio e riappare alle 22:30 della sera del 14. E ha affermato il procuratore François Molin, ricostruendo nei dettagli l'attentato del Promenade des Anglais. Il camion era stato noleggiato l'11 luglio e avrebbe dovuto essere ricostruito il 13, riconsegnato, immagino, sì, perché l'italiano è un po' bislacco in questa agenzia, spiegando che poi la bicicletta è stata poi ritrovata nella stiva del camion. No, lo dico perché ieri nella concitazione della notte della nostra lunga diretta c'era anche chi giustamente diceva, ma cerchiamo di capire che non sia un pazzo isolato, si parlava di un uomo che si fosse appena separato. Ora, i morti sono morti per uguali, ci mancherebbe. È ovvio che però nella dinamica cambia se tu hai a che fare con un psicopatico che fa una strage per una delusione amorosa o se tu hai un terrorista. Il fatto che questo sia arrivato in bici, l'abbia messa dentro il camion e l'abbia noleggiato l'11 luglio per poi riconsegnare il 13... Io non faccio l'investigatore, però l'ipotesi dell'uomo che preso da un raptus amoroso, raptus diciamo di delirio e delusione amorosa, viene meno, perché uno è molto premeditato come attentato, lo leggiamo adesso, 11 luglio, e la bicicletta con cui arriva viene messa anche nel camion. Adesso, per essere un attacco così di uno psicopatico, mi sembra un po' troppo razionale. Anna Rita. Beh sì, c'è anche un altro aspetto del quale si è discusso molto durante la nottata e del quale evidentemente continueremo a discutere. Era davvero solo sul camion? Il punto è ovviamente fondamentale, nel senso che qualcuno sostiene di aver visto scappare dal camion almeno 3 persone, cioè è interessante, è importante a questo punto capire se c'è una struttura organizzata dietro e da quante persone è composta. Figurati che di questo killer si dice che abbia superato i controlli, perché poi appunto tutta la promenade era sotto rigido controllo della polizia, dicendo che doveva andare a vendere dei gelati, quindi insomma... Sì, vedo anche gli ascoltatori che dicono due cose, vi prego di limitare, come ho chiesto all'inizio del programma, le polemiche al minimo. Alcuni dicono, ma insomma qui da noi in qualunque sagra di paese ci sono i carabinieri con le transenne che non ti fanno entrare neanche se sei residente, com'è possibile che questo abbia mollato un camion da 18 tonnellate in una zona pedonalizzata? E un altro ascoltatore scrive, ma insomma trasporto gelati, ma i gendarmi della Sicurezza, della Sicurezza Nazionale non controllano le bolle di carico. Adesso non lo so se da noi controllano le bolle di carico, certo che insomma non era un camioncino dell'Algida, e quindi qualcosa forse non ha funzionato. Se bisogna capire se lui l'ha parcheggiato lì, perché il fatto che il procuratore dica che è arrivato in bici farebbe intuire che l'aveva parcheggiato in una zona pedonalizzata, è arrivato in bici e ha detto che doveva spostarlo. Capite che le cose sono un po' diverse, perché anche da noi, se tu devi rimuovere un'auto in una zona pedonalizzata transennata per una manifestazione, te la fanno rimuovere se devi uscire, non ti fanno entrare ma ti fanno uscire. Quindi questo cambierebbe anche le cose, lo dico prima di andare con sentenze, ecco, non capiscono nulla i gendarmi francesi. Torniamo però, ahimè, alle vittime, Anna Rita, perché sì, abbiamo avuto un po' di ore fa, ma è importante, una testimonianza su questo. Sì, la raccolta è il nostro Andrea Ferro, che peraltro, mi dicono dalla regia, è in collegamento con noi e quindi potrebbe eventualmente fornirci anche gli ultimi dettagli sulla situazione dei feriti. Buonasera Andrea. Sì, buonasera, buonasera dalla Promenade des Anglais. Ecco Andrea, dove ti trovi in questo momento e che cosa puoi dirci in più, soprattutto sull'atmosfera mesta che si è vissuta a partire da ieri, insomma? Anna Rita, io e Sebastiano, io vi sto parlando dal dehors del caffè Baltazar, davanti al quale, per iniziativa dei gestori di questo ristorante, si è allestito uno, e non è l'unico, altarino dove sono raccolti decine, forse centinaia di mazze di fiori con lettere, messaggi, disegni, cuori, e fino a pochi minuti fa qui dagli altoparlanti di questo locale veniva trasmessa a ritmo continuo la Marsigliese. Si continua a firmare su questi fogli di carta messaggi rivolti chiaramente alle vittime, ai feriti. C'è una folla che prende forma e si ingrossa ora dopo ora qui come davanti agli altri altarini, diciamo così, che hanno preso forma lungo Promenade des Anglais, in corrispondenza delle strade che poi si affacciano sulla Promenade. Ricordo da stamattina, dei collegamenti di stamane, che i 2 chilometri lungo i quali si è seminata la morte con questo tir impazzito sono ancora, diciamo così, oscurati alla vista sia dei giornalisti che dei turisti, degli abitanti di Nizza. Sono queste paratie bianche allestite sopra un reticolato per consentire alla polizia di eseguire gli ultimi rilievi, e a poca distanza da noi si intravede anche la sagoma del tetto di questo camion che ha provocato la strage. Per quanto riguarda il numero dei feriti, il numero delle vittime, confermo, siamo a 84, ma poco fa fonti delle autorità di giustizia francesi hanno detto che il bilancio è destinato a salire. Come dicevate quando mi sono collegato, ho sentito questo passaggio, ci sono almeno 48 feriti gravissimi, purtroppo lo sappiamo per esperienza. Di fronte a situazioni di questo genere, il bilancio definitivo si avrà non certo nelle prossime ore, ma probabilmente nei prossimi giorni. I feriti sono poco meno di 200, confermo, 48 quelli gravissimi, 25 dei quali in condizioni disperate ricoverati nei reparti di rianimazione degli ospedali di Nizza e della regione. Tra le vittime, tra bambini e adolescenti, 10, sono 10 i bambini ricoverati, sono una quindicina. Non ci sarebbero tra i bambini ricoverati bambini italiani. Questa è una voce che è stata raccolta da un'agenzia e riportata poco fa da parte di un responsabile dell'ospedale pediatrico di Nizza. Per quanto riguarda gli italiani dispersi, ecco, sugli italiani, perché sì, sugli italiani ancora non ci sono numeri. Noi abbiamo fatto ascoltare anche la voce di Alfano, insomma non ci sono dei numeri, però ieri sulla Promenade c'erano nel complesso 30.000 persone, quindi gli italiani saranno sicuramente stati molto Nizza, numerosi. Nizza ha la comunità italiana più forte, ex Nizza Sabauda, e gli acquisti di case di stranieri, la comunità italiana è di gran lunga la più presente. Andrea, 30.000 persone. Consideriamo che siamo a metà luglio, consideriamo che siamo ormai nel pieno dell'estate, che ieri era in programma una festa molto importante, la festa del 14 luglio, che quindi inevitabilmente anche dalla vicina Riviera dei Fiori, Riviera Ligure, molti italiani hanno raggiunto Nizza per assistere a questo spettacolo. Però chiaramente più passano le ore, più, diciamo così, non arrivano comunque notizie confermate di altri dispersi italiani, come mi pare abbiate dato conto mentre prendevo la linea. Per quanto riguarda anche una coppia di dispersa, il marito è stato ritrovato, invece la donna risulta ancora dispersa, e stiamo parlando, certo, della coppia di Nizza Monferrato. Sì, che era venuta, da quello che abbiamo capito, era venuta a festeggiare la pensione Sì, erano in vacanza della settimana a Nizza per festeggiare la pensione. Sì, e poi, mentre invece risultano ancora dispersi, Angelo D'Agostino e Gianna Musè, che sono invece la coppia di Voghera, della quale non si hanno più notizie da ieri sera. Da ieri sera i parenti stanno cercando di mettersi in contatto con loro, ma i loro cellulari non rispondono. Non rispondono. Allora, chiaramente la poi speranza... Prego, Andrea. Posso dire che c'è un contrasto fortissimo tra chiaramente questa scena, questi gendarmi, questi poliziotti che diciamo così danno il senso di quello che è successo ostruendo il passaggio, e poi all'interno della città, non dico che sembra che non sia accaduto niente, ma c'è una voglia, diciamo così, un tentativo di normalità che evidentemente è anche un segnale di riscossa di fronte alla negatività imperante, di fronte a questo mondo che ha paura. Allora, sono molti gli stranieri, non siamo solo gli italiani, abbiamo raccolto anche testimonianze da parte di Andrea, adesso l'ascoltiamo dopo il meteo e la pubblicità. Devo dire, sui messaggi che arrivano al 349-238-6666, che molti, cerco una sintesi chiaramente imprecisa, molti si concentrano sulla sicurezza, come è possibile far passare un camion 18 tonnellate per camion dei gelati, quelli sono camion che trasportano i supermercati, come è possibile averlo lasciato lì con una manifestazione che doveva essere e non avere aumento di livelli di sicurezza. Lo so, invito tutti, ma non è una critica, a non fare, a non avere sempre il senno di poi, cioè, per carità, è ovvio che un camion lì, se lui è arrivato in bicicletta, come dice il procuratore, era parcheggiato lì da giorni, uno si può chiedere che cavolo ci fa un camion del genere parcheggiato lì da giorni, quantomeno da noi te lo rimuovono, te lo mutano, però bisogna, poi qualcuno propone di iniziare a negare la sepoltura secondo le regole coraniche, devono sapere che non andranno in paradiso, sì, adesso, vabbè, adesso. Detto questo, c'è chi mi scrive: in quanto è stimabile il danno economico per il mancato turismo in Francia e quanto bene potrà fare al turismo italiano? E quanto stronza è questa domanda, no? Meteo. Focus Economia. Dovevamo andare a vedere i fuochi come tutti gli anni, però visto che c'era questo vento ho detto sta a sentire, non ho voglia, siamo a casa. E nel punto proprio dove noi andiamo tutti gli anni, grazie a Dio, non sono andata. Quindi lei avrebbe... Sì, stavo per andare ai fuochi, però all'ultimo momento ho detto guarda, sta a sentire, c'è troppo vento, non ho voglia, poi ho preferito stare a casa, ero anche un po' stanca. Salgo, allora sono... eravamo in casa che parlavamo, a un certo punto sento un boato, la casa cioè ballava come un terremoto. La prima impressione era come se ci fosse uno tsunami, perché io mi sono affacciata dal balcone con mio figlio e guardando se arrivava un'onda, perché in quel rumore lì lo fa solo un'onda, cioè il mare, ho detto qua è successa una catastrofe. Non avete pensato un atto terroristico? No, perché c'erano i fuochi. Poi però io ho avuto l'impressione, perché i fuochi a un certo momento non hanno fatto la finale, ho detto sarà il vento, li avranno, infatti erano sospesi, sono stati sospesi i fuochi. E in quel momento è arrivato, la casa ha tremato, ma eravamo tutti fuori dal balcone. Poi come avete capito? Abbiamo capito perché la gente gridava che c'era qualcuno che sparava. Allora, Annalita D'Ambrosio, questa che abbiamo appena ascoltato era la testimonianza di una ristoratrice italiana, no? Sì, una ristoratrice italiana, Elisabetta, al microfono di Andrea Ferro. Il suo ristorante era a 100 metri dal luogo della sparatoria e lei non si trovava nel ristorante ma appunto nell'abitazione, perché come raccontava aspettava il figlio per scendere a vedere i fuochi. Poi a causa del forte vento aveva deciso di non scendere, insomma. Tra l'altro adesso non so se avremo tempo oggi, ma magari riusciamo anche a farvi ascoltare nella seconda ora le testimonianze che abbiamo raccolto ieri in diretta proprio di ristoratori, alcuni francesi, altri italiani che abbiamo raggiunto così per caso, in cui si sono visti distruggere i locali. Poi alcune immagini questo lo mostrano, dalla gente che entrava presa dal panico. Un ristoratore italiano dice: non avevo più una sedia, un tavolo. Questo per dare l'idea anche di che cosa sia successo. Vedo ancora moltissime polemiche sul fatto che la Francia abbia abbassato la guardia dopo gli europei andati bene. Andrea Ferro, Ma stanno già montando anche in Francia le polemiche sulla sicurezza, su perché quel camion da 18 tonnellate fosse lì parcheggiato, come dice il prefetto, dall'11 luglio, oppure è troppo presto, oppure, diciamola tutta, è difficile prevenire e sventare qualunque tipo di attentato, perché se d'estate iniziamo a pensare a tutte le manifestazioni turistiche che ci sono e se iniziamo a pensare che questo ha usato un camion, io, per carità, tu puoi transennare tutto, perquisire tutto, però vedi bene che poi nessuno era arrivato a immaginare un camion senza esplosivo che si lanciava contro la folla durante i fuochi d'artificio a Nizza. Andrea? Ma senz'altro, io chiaramente io non frequento abitualmente Nizza, quindi non posso misurare il grado di reazione come un locale potrebbe fare, però io ho colto, diciamo, una più che un'ansia da polemica, una paura diffusa, una voglia di gridare la paura, il senso di insicurezza che al di là dell'episodio specifico sta ora caratterizzando il nostro mondo, la nostra quotidianità. Il fatto che la gente a un certo punto è scappata e ha cercato rifugio disperatamente all'interno di un locale dice che ormai nella testa della gente c'era la sensazione, certo, di quello che poteva essere successo, esatto, a Parigi o poi in Belgio. Cioè ormai la reazione automatica di questa folla, secondo me, la dice lunga sul livello di paura e di disperazione che si innesca dopo quest'anno e mezzo di terrore, di attentati. Cioè, io al di là della sicurezza, diciamo così, della polemica sulla sicurezza e quindi sui tecnicismi relativi alle misure che ci sono state e ci dovevano essere, non ci sono state, io avverto nell'aria questo senso di paura, di disperazione. Il senso di trovarsi da un momento all'altro in una situazione come quella che è stata vissuta allora, ieri. Come a me. Andrea, nel ringraziarti, perché so che tu devi lasciarci e ritornare anche a fare altre interviste, altro lavoro, e grazie Andrea Ferro che da questa mattina ci aggiorna con compiutezza e professionalità da Nizza. Anna Rita, prima di lasciare la linea al traffico, l'aggiornamento sugli italiani, ahimè. Sì, non abbiamo ancora una lista ufficiale degli italiani coinvolti nell'attentato di Nizza, questo lo ha confermato il console generale d'Italia a Nizza, Serena Lippi, che noi abbiamo intervistato nello speciale di questa mattina. La Lippi ha confermato che si stanno ancora incrociando le segnalazioni che arrivano agli uffici del consolato con quelle arrivate all'ambasciata italiana e all'unità di crisi della Farnesina. La coppia di Voghera, ne abbiamo parlato, della quale non si hanno notizie, famiglia di sperata, ma spera, questo si dice, ne faceva riferimento anche nel collegamento Andrea Ferro. Si tratta di Angelo D'Agostino, di 71 anni, della moglie Giovanna Musette, di 68 anni, coppia di Voghera, che ieri si trovava sulla promenade. Non si hanno notizie, ma i familiari sperano ancora di poterli trovare in vita. E speriamo anche noi con loro. Dunque, adesso andiamo sul traffico. Per quello che riguarda il console generale, poi vediamo se riusciamo a ascoltarlo, abbiamo anche altre testimonianze, vedo ancora molte polemiche, tanto sapevo che sarebbero nate, sull'Islam. Dell'Islam abbiamo parlato molte volte. Allora, è ovvio che anche questa volta, come dopo il Bataclan, come dopo Bruxelles, ci aspettiamo netta una manifestazione fatta non da 500 persone però, ma da qualcuno in più, del famoso Islam moderato che prenda le distanze da questi pazzi. Tra l'altro vedo adesso una circolare della Pubblica Sicurezza a Nizza che dice: se vi saranno assembramenti andremo verso la chiusura delle strade. Questo la dice lunga sulla difficoltà a tornare a una qualche forma di normalità a Nizza. Non lo so se serva non seppellirli, qualcuno cita addirittura di seppellire nelle fosse di maiali, non me ne frega nulla. Posto una cosa, che il tema della morte è un tema molto individuale. Se dovessimo scoprire che è sufficiente non seppellirli per fare in modo che non vadano nel paradiso con le vergini, ma subito io lo faccio, tanto voglio dire, qui stiamo ancora discutendo se dare la benedizione a chi fa l'eutanasia, e poi ieri oggi mi sembra che l'abbia avuta Provenzano, me ne freghi. Se si scopre che quello, io temo che non sia quello il modello, però voglio dire, se scopriamo che improvvisamente nessuno si fa più esplodere o fa attentati solo se non lo seppellisci in maniera islamica, ma facciamolo subito. Così come temo che non basti. Qualcuno mi dice: scommetti che a Tel Aviv invece che fare 2 chilometri faceva 50 metri. Ho capito, ragazzi. Però quanti palestinesi sono fatti esplodere negli autobus israeliani in questi anni? Attenzione a dire che solo e sempre colpa della sicurezza. Non facciamo, cioè, è colpa che ci sono dei criminali pazzi che evocano un Islam che non esiste. Dai, che devo mandare adesso? Traffico? No, traffico e poi GR24, immagino. E poi torniamo in diretta. 349-238-6666 per i vostri sms e whatsapp e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. :18:08 di nuovo con la diretta speciale di Radio 24, quindi Focus Economia in versione speciale con gli aggiornamenti da Nizza, con me in studio sempre Annalita D'Ambrosio. Cerco di dare anche il computo degli sms. Vedo che molti ancora, abbiamo semplicemente detto, attenzione, che va bene, a mio avviso non va neanche bene, ancora troppo presto, polemizzare con le forze di sicurezza francesi, però non cadiamo nella sindrome di Stoccolma, nel senso che alcuni dicono in Israele quant'altro, per carità, vedremo se la polizia ha sottovalutato la presenza di questo camion parcheggiato lì dal giorno prima, lui fermato, poi va in bicicletta, quello che dice il prefetto è arrivato in bicicletta al camion e poi è montato sul camion, ha messo le bici dentro, vediamo se, e ha detto che doveva trasportare gelati, vediamo se in realtà tutta la dinamica, ripeto, con pochissimo senso logico, però noi sappiamo che se un'auto è parcheggiata in una zona già delimitata e deve uscire, ti fanno uscire, questo aveva già parcheggiato dentro il camion. Ma detto questo, siamo ancora privi di elementi, non cadiamo nella sindrome di Stoccolma. Qui c'è un assassino criminale che ha ucciso almeno 84 persone, però diventa che la colpa è quasi della civiltà francese, no? Allora, un attimo, dopodiché presidiare tutto il nostro vivere quotidiano, che è quello che vorrebbero sti bastardi dell'ISIS, mi sembra molto difficile. Prima di dare solo la colpa, perché sennò diventa che la colpa quasi, sembra quasi che l'assassino abbia meno colpa della polizia. Attenzione alla sindrome di Stoccolma. Così come sull'Islam moderato, allora alcuni mi dicono: guardate che allora anche se il capostazione di Andria fosse stato islamico e avremmo parlato di terrorismo, evitiamo anche qui però le altre estremizzazioni. Nessuno ha mai detto che tutti, ma ci mancherebbe, gli islamici siano terroristi, però riprendo la definizione di Levy, e cioè è anche vero che tutti i terroristi che in questi anni stiamo commentando sono islamici. Ecco perché si chiede una presa di posizione netta degli imam nelle loro prediche del sabato. Poi, se, ripeto, a me dove vengono seppelliti questi assassini non me ne frega nulla, se scoprissimo in maniera chiara che seppellirli in maniera non islamica non gli permetterebbe di arrivare a ste cavolo di vergini in paradiso, ma facciamolo subito. Ma cosa volete che me ne freghi di un assassino? Devo rispettare anche, ma non lo farei neanche per Provenzano, volete che lo faccia per un assassino del genere? Oddio, Provenzano era forse anche più assassino di questo. Però detto questo, segnalo che da un lato c'è l'imam di Nîmes e vicepresidente della conferenza degli imam francesi, si chiama Hossein Droulche, ha detto una cosa molto grave, molto pesante, ha annunciato le sue dimissioni da qualunque incarico, il suo rifiuto di queste istituzioni incompetenti che non fanno nulla per la pace sociale, che non la smettono di ripetere, ma ce l'aveva con i suoi confratelli imam musulmani, che non la smettono di ripetere che l'estremismo non esiste e che è prodotto dai mass media, perché anche questo circola tra le comunità islamiche, che in realtà siamo noi a esagerare, e che continua l'imam di Nîmes, le sue parole appunto indirizzate anche ad altri imam: spero che lascino perdere le loro riserve negative e soprattutto che non parlino nelle loro prediche del venerdì di argomenti che non hanno nulla a che fare con l'attentato. Anch'io mi aspetterei che oggi tutti gli imam parlassero dell'attentato e condannassero in maniera senza se e senza ma l'attentato, basta con la civiltà occidentale. Mentre l'Università di Al-Azhar, massima istituzione del mondo sunnita con sede al Cairo, ed è veramente, per come funziona il mondo sunnita, potremmo dire quasi l'interpretazione autentica che può dare da noi il Consiglio Pontificio, ha detto sostanzialmente, ha espresso un secco rifiuto a ogni forma di violenza, ha condannato l'attentato facendo appello all'unità per liberare il mondo dal terrorismo. Questi atroci attentati terroristici contraddicono gli insegnamenti dell'Islam. Annette D'Ambrogio, su questo immagino che un po' di polemica si stia scatenando anche per le parole del nostro ministro Alfano. Sì, perché il ministro Alfano ha ricordato le minacce che già erano arrivate in passato, ma anche di recente, dell'ISIS, del presunto stato islamico, che invitava dei lupi solitari ad agire con degli atti particolari, anche con una pietra, ha ricordato il ministro Alfano, e tra le ipotesi di attacco c'era anche quella di un'auto. E allora ascoltiamo le parole del ministro Alfano sulla prevedibilità dell'attentato di ieri. Quello che si è verificato ieri purtroppo era stato anche in un qualche modo teorizzato nel 2014 al Adnani, che è il portavoce del sedicente Stato Islamico. Così diceva, tra virgolette lo leggo: se non siete in grado di procurarvi un ordigno esplosivo o una pallottola, allora scegliete un infedele americano o francese o qualunque altro loro alleato e rompetegli la testa con una pietra o accoltellatelo, investitelo con un'auto, buttatelo giù da un'altura, strangolatelo o avvelenatelo. Insomma, il meccanismo del il riferimento alla car jihad era già insito nei proclami del portavoce dell'autoproclamatosi Stato Islamico. Queste le parole del ministro Alfano, parole, Sebastiano, fin troppo chiare, perché ha letto proprio la dichiarazione. Tra l'altro leggiamo anche che la Costa Azzurra e la provincia di Nizza sono praticamente terreno fertile, terreni tra i più fertili per i terroristi, non in Francia, ma non solo, anche in tutta Europa. Questo lo rivelava anche un reportage di Le Figaro, che era stato fatto all'indomani degli attentati in Francia. Dunque forse ci voleva sicuramente una particolare attenzione, anche se non è il momento, come dicevi tu, di affrontare il tema oggi. Diciamo. Dico, non sappiamo ancora quanti sono i morti. Non rispondo a te, ma agli ascoltatori. Ma è ovvio che adesso andremo, come nel caso del Bataclan, come nel caso ancora più clamoroso degli attentati a Bruxelles, ad analizzare anche le inefficienze, quello che non ha funzionato nell'intelligence francese, nella sicurezza fisica e nelle strutture di sicurezza in quella manifestazione, che è comunque una manifestazione con 30.000 persone, con i fuochi d'artificio, che aveva tutte le caratteristiche per essere un obiettivo sensibile. Sto solo dicendo che se iniziamo subito a darci la colpa per come non hanno funzionato le misure di sicurezza, sembra quasi che ci dimentichi, e magari si dice era un disadattato, ma chi cavolo se ne frega se è disadattato? Cioè non è che tutti i disadattati con il record che abbiamo di disoccupazione in questo paese si mettono con un camion a fare una strage. Cioè inconsciamente stiamo già giustificando sto bastardo. Allora diciamo che era un bastardo, che non è islamico, che le vergini se le sogna. A me poi questa cosa delle vergini mi fa impazzire, ma massimo rispetto per tutte le religioni, per cui evito il commento sulle vergini. Detto questo, però non dimentichiamoci che qua c'è un assassino e che la prima reazione deve avere la comunità islamica europea, non solo quella francese di Nizza, e la vorrei vedere dagli imam. Vorrei, mi piacerebbe, ma non abbiamo il tempo nelle forze oggi, mandare qualcuno in qualche moschea a sentire qual è la predica di oggi, se parlano, diciamo, dell'Occidente, di cosa non va l'Occidente, o se parlano della deriva malata che alcuni loro fedeli stanno intraprendendo da tempo. Questo vorrei sentire, perché poi l'integrazione si fa anche con l'assunzione di responsabilità. Facciamo l'esempio, fu facile con Bruxelles, con il Bataclan, mutatis mutandis, quando da noi i terroristi trovavano acqua e spazio nell'acquario, diciamo, della sinistra parlamentare ed extraparlamentare, e si disse all'inizio che erano compagni che sbagliavano, l'isolamento dei terroristi delle Brigate Rosse avvenne solo quando l'allora PC e tutto il sindacato smise di dire che erano compagni che sbagliavano e disse che erano solo ed esclusivamente terroristi, non compagni che sbagliavano. E quindi questo vorremmo vedere noi dall'Islam, tutto qui. Poi faremo anche l'analisi di quello che non ha funzionato nelle eventuali falle nella sicurezza. Annalita, prima del traffico ci sono notizie sugli italiani? Notizie sugli italiani, come abbiamo detto, al momento non ce ne sono, o meglio non sono confermate, ci sono alcuni dispersi, sicuramente la moglie dell'uomo, del consigliere comunale della provincia di Cuneo che si trova ricoverato in ospedale in condizioni gravissime, poi la coppia di Voghera, sono in realtà tre le persone che in questo momento si stanno cercando, ma il console generale d'Italia a Nizza, Serena Lippi, ha ribadito nel pomeriggio quella che aveva detto ai nostri microfoni questa mattina, cioè sul fatto che non era possibile in realtà riuscire a sapere il numero esatto. E allora ascoltiamola. Purtroppo non bisogna allarmarsi, non bisogna fare, però ci aspettiamo, perché veramente i numeri degli italiani a Nizza il 14 luglio con il ponte erano veramente tanti. Io ero lì tra loro, quindi veramente ho visto uno spettacolo meraviglioso trasformarsi in giro di 5 minuti in un incubo agghiacciante, veramente è stato terribile. La Farnesina console invita i connazionali presenti a Nizza ad evitare spostamenti, è una raccomandazione che ripetiamo. Noi stiamo operando ovviamente in stretto contatto con la sala operativa dell'unità di crisi da questa notte ininterrottamente, con l'ambasciata Italia a Parigi, l'ambasciatore italiano a Parigi adesso sta arrivando qui, anche lui sul posto. Stiamo veramente in stretto contatto e i nostri telefoni abbiamo comunicato tutti, anche i cellulari di reperibilità, dove sono aperti appunto 24/24, però quello che raccomando veramente, perché io stessa prendo anche le telefonate, che rispettino veramente i numeri, cioè quando si dice numero di emergenza per segnalare che sia un'emergenza, che sia un'emergenza, non sia voglio fare la vacanza in Costa Azzurra, perché purtroppo capisco tutto, oppure c'è, non sono queste le ore per occuparsi di questo, insomma. Non sono queste veramente, però abbiamo dato comunque anche dei numeri sulla viabilità e abbiamo comunicato tutto all'unità di crisi, anche l'unità di crisi ovviamente sta lavorando. Quindi questa è la console Serena Lippi, adesso devo dare le informazioni sul traffico, poi vi do comunque un aggiornamento di borsa e anche sull'OPA RCS, perché devo dare anche la cronaca di questa giornata. 349-238-6666 come SMS e WhatsApp, e poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Focus Economia. Allora, adesso do un aggiornamento della giornata di borsa. Vedo molti messaggi anche sull'Arabia Saudita. Sì, è chiaro che ci aspettiamo anche una posizione dall'Arabia Saudita, visto che non sfugge a nessuno che tra i grandi finanziatori del tutto il movimento wahabita, quello a cui è nato Al-Qaeda e poi lì con la matrice ideologica di sti bastardi, beh, ci sono anche i principi sauditi. Poi c'è una cosa che mi fa impazzire, ma la chiudo qui. Ho visto una polemica di un commentatore turco ieri sul tema, per cui c'è uno degli eredi al trono fotografato con il solito yacht e 20 donne attorno, non vergini, almeno non le ho controllate personalmente, ma di solito quelle che salgono su questi yacht non è che proprio abbiano la verginità come prerequisito. Allora non si capisce perché da un lato finanziano i movimenti fondamentalisti, poi per i fatti loro sti principi sauditi non me ne frega nulla se sono sauditi o no, in vacanza non mi sembra che abbiano questi atteggiamenti moderati, né selezionino le donne che salgono sugli yacht solo in base alla verginità. Allora un po' di coerenza, perché ci saremmo anche rotti le scatole. Ho capito che avete i soldi, ma solo quelli alcune volte. Andiamo avanti. Meno 0,30% Milano oggi, meno 0,30% Parigi. Quindi adesso qualunque investitore pubblicitario di qualche fondo saudita ce lo siamo giocati su Radio 24. Chi se ne frega. Meno 0,30% a Parigi, invariata Francoforte, più 0,22% Londra invece. E il Dow Jones meno 0,10%. Euro su dollaro a quota 1,10. I titoli poco mossi oggi: Pop Milano più 2,20, Banco Popolare più 1,20, Unicredit più 1,20, Pop Emilia Romagna più 1,20, CNH più 1,13, A2A più 1%, Telecom più 0,90, Exor meno 1,80, Poste Italiane meno 1,70, Moncler meno 1,60, Finecobank meno 1,50 come Mediobanca, Saipem meno 1,30, Eni meno 1,20 come Campari, l'1% lo perde Generali. La vicenda invece del Rizzoli Corriere della Sera, che si chiudeva alle 17:30, allora dunque debole in borsa meno 0,27% a 0,94 euro, titolo del gruppo Cairon ha ceduto l'1,3%. E praticamente a questi prezzi lo scambio di Cairo valorizza Rizzoli a 1,042 euro. Invece a breve, ma non sono ancora arrivate, dovrebbero arrivare le comunicazioni di Borsa Italiana sulle quote in possesso, però non le vedo ancora, per cui comunque se non dovessero arrivare in tempo utile, entro le 7:59 di lunedì mattina, sia la cordata di Bonomi che quella di Caro dovrebbero comunque dare notizia o della rinuncia delle condizioni di efficacia dell'offerta o dell'avveramento di essa. Giovedì 21 verranno comunicati i risultati definitivi. Ancora per quello che riguarda, no, non vedo altre notizie sull'OPA RCS. Allora, ancora altri aggiornamenti da Annalita D'Ambrogio e poi ci colleghiamo con Nizza dove c'è la nostra Raffaella Calandra. Sì, altri aggiornamenti che arrivano sono sempre quelli relativi al bilancio. I feriti, lo abbiamo detto, sono in aumento, erano 188 nel primo pomeriggio, sono 202 al momento, 48 in gravi condizioni, 15 bambini ancora ricoverati negli ospedali di Nizza. Ospedali di Nizza nei quali si cercano anche i tanti italiani che ieri si trovavano nella promenade tra i 30.000 che assistevano allo spettacolo dei fuochi d'artificio. Un italiano è stato trovato nell'ospedale Pasteur, ritrovato in gravissime condizioni, un italiano di 53 anni, la moglie risulta dispersa, così come una coppia di Voghera. 4 bambini sono tra la vita e la morte, questa è un'agenzia appena diffusa e secondo fonti mediche, lo abbiamo detto, in tutto sono 15 quelli ricoverati negli ospedali, purtroppo 3 o 4 sono in condizioni davvero gravissime, gravi traumi. Immaginerete quello che dicevamo, cioè tante famiglie, tante famiglie. Sì, questo, infatti adesso si guarda anche una coppia di scozzesi, l'appello su Facebook, il problema è appunto che ancora non abbiamo i nomi attivi. Guardate, non mi fate parlare, sarebbe solito più a lungo del dovuto, predicano bene, razzano male come i nostri cardinali, sì, una volta, secoli fa, per carità, invocavano la castità e il pauperismo e poi andavano a fare i cavi loro, però guarda, il punto non è questo, il punto è l'elemento politico, cioè noi ci aspettiamo che dai paesi che hanno un grosso impatto sul mondo sunnita, Arabia Saudita in primis, arrivi una condanna netta e basta, poi quello che fanno i sauditi con i loro soldi sugli yacht sono cavoli loro, e ci aspettiamo che gli imam nelle moschee venerdì accusino e critichino quello che è successo ieri a Nizza, e non critichino, lo respingano, ok? Non è successo, ma anche voi, però no, ogni volta con ma anche voi, però gli dovete spiegare ai 3-4 bambini in fin di vita cosa vuol dire anche voi. Raffaella Calandra in collegamento da Nizza, buonasera Raffaella. Buonasera a voi. Ecco Raffaella, da questo punto di vista noi continuiamo a vedere dalle agenzie ancora un'estrema incertezza sul numero delle vittime, ma anche sulla loro nazionalità, e abbiamo visto anche un'agenzia in cui il prefetto vietava assembramenti, dava la possibilità di vietare assembramenti. Com'è la situazione a Nizza, visto che tu stai girando anche i quartieri islamici della città? Sì, io sono tuttora appunto proprio qui nel palazzo di Rue de Turenne 62 dove viveva appunto l'attentatore. Cioè sicuramente in tutta la città, e questo è facilmente percepibile, una situazione di una grande tensione, i cartelli anche all'uscita dell'autostrada hanno le parole dell'inno, l'égalité, fraternité, liberté, ecco, e ci sono elicotteri che stanno sorvolando tutti quanti i quartieri ed è facile appunto intuire appunto l'atmosfera di grande tensione che c'è qui. In questa zona però devo dire questo non si percepisce, soprattutto questa è una zona dove adesso ci si sta interrogando su questo attentatore, che però i vicini con cui ho parlato descrivono come una persona per nulla radicalizzato, non portava la barba, non addirittura non aveva praticato il Ramadan, raccontano alcuni, raccontano di averlo visto per lo più in giro con la sua bicicletta, la stessa che poi ha usato ieri sera per raggiungere questo camion con cui questo camion che aveva noleggiato e con cui ha fatto la strage. Un uomo scontroso, solitario, poche parole, raccontano di averlo visto soltanto una volta con i figli, da un anno si era separato dalla moglie, cioè la lettura che da qui in questo quartiere, che è un quartiere di periferia, ma una periferia molto dignitosa, fatta anche di molti studenti, raccontano, l'ipotesi più quella di la follia di un uomo. Dopodiché invece è evidente che il suo gesto, per dirla anche con la procuratore Molenna, risponde in pieno all'appello che molti leader del califfato avevano fatto, cioè quello di mettere in atto degli attentati anche con delle auto se non avete le armi, così avevano scritto nei loro media. Mi rendo conto che la domanda sia difficile, però hai notato nel raccogliere queste interviste più sorpresa o giustificazione? No, assolutamente sorpresa, incredulità e anche terrore. Una delle vicine di casa, una di quelle che ha parlato più a lungo, racconta di essere ora terrorizzata, che non si meravigliava, pensava assolutamente che potesse essere l'autore di una strage di questo tipo. Condannano in un modo netto il gesto, tutto quello che ha fatto. Le persone che sono qui non riescono a capire il perché di questo gesto, anche perché questo quartiere sembra parlare di una immigrazione di seconda generazione anche abbastanza integrata, anche se proprio Nizza è stata una delle città da cui sono partiti circa 500 foreign fighters. Infatti prima ricordavamo le agenzie che battevano appunto Nizza per vivaio di molti foreign fighters, quelli che dall'Europa sono andati a combattere in Siria. Grazie Raffaella Calandra, ti riavremo nei nostri GR24 a partire dalle 19. Anna Rita D'Ambrosio, ne ringraziamo anche te, però facciamo un punto finale, visto che adesso il programma si conclude, sulla situazione allo stato delle cose. Allo stato dramma attuale abbiamo 84 morti, 84 vittime, un numero che purtroppo è stato detto potrebbe salire nel corso delle prossime ore. Sono saliti a 202 i feriti, 48 in condizioni gravissime. Tra questi sono ricoverati negli ospedali di Nizza 15 bambini, 3 o 4 in condizioni gravissime. Le altre notizie che si sanno in più sono relative agli italiani. Uno è stato certamente ritrovato in vita ma in condizioni estremamente gravi, ricoverato nell'ospedale Pasteur di Nizza. Non si hanno notizie della moglie, si tratta di un uomo della provincia di Cuneo. Non si hanno notizie anche di una coppia di settantenni di Voghera, tutti si trovavano a Nizza in vacanza. Quindi al momento, diciamo, gli italiani dispersi dovrebbero essere 3, ma come abbiamo sentito dalla voce del console Lippi non è un numero definitivo. Allora, ringrazio anche Anna Rita D'Ambrosio per gli aggiornamenti che ha tenuto anche in questa ora e mezza. Vi auguro un buon fine settimana, anche se sarà un fine settimana di lutto e di solidarietà alle vittime francesi, le vittime di Nizza. Un uomo normale che improvvisamente uccide tutti i normali integrati, chiede un ascoltatore. No, ma è chiaro che insomma la sorpresa degli abitanti del quartiere è una cosa, altra cosa è definirlo normale. Dopodiché è una sorpresa che preoccupa ancora di più, nel senso che rende ancora più incerti tutti noi. Vi ringrazio per l'ascolto. Noi ci risentiamo lunedì dalle 17 in poi. Radio 24. La passione si sente.